È l'ora del lupo. Ho aspettato quest'ora per registrare questo podcast. Leggerò da una raccolta che ho scritto nell'ultimo mese. Si intitola Versi a Lucilla. Il titolo è già esplicativo di per sé. Tutti i testi che leggerò stasera sono inediti. E nessuno li ha mai ascoltati tranne Lucilla. Tranne l'ultimo testo, che neppure lei ha ascoltato. Ho deciso di includerlo in questa lettura perché tra le persone che mi hanno chiesto la password per ascoltare il podcast c'è anche lei. E quindi sono un po' emozionato perché mi trovo nella condizione di leggere, come di fronte a un pubblico, una poesia a lei dedicata. Anzi, tante poesie a lei dedicate, ma una in particolare che lei non ha mai ascoltato. E quindi mi trovo proprio come se fossi in una sala, di fronte a persone, alcune che conosco, altre che non conosco così bene, altre ancora del tutto sconosciute, a leggere un testo dedicato a una persona che in questa sala, che le persone non conoscono, e quindi a fare con Lucilla uno dei nostri giochi in fondo. Quei giochi che tanto ci piacciono e che, anche se adesso chi ci è intorno un po' ci ha scoperti, noi continuiamo a fare con la stessa, con lo stesso spirito con cui giocano i bambini che, anche quando sono scoperti, fanno finta che nessuno li veda e continuano a giocare indifferenti. Quello che chiedo a chi ascolterà le poesie è di essere severo con il poeta, se un po' è indulgente con l'innamorato. Versi a Lucilla numero 2. Ai candidi elementi di questa sera affido cose a cui non credo più, dei velati, aedi ciechi, carezzano il dolore dei venti, i rosi demoni agli ormeggi. I loro denti stringono catene, a sé tendono le gomene, legano scafi corrosi nell'ingegno dei nodi, pugni d'angeli su calici di gigli acerbi e tabernacoli. Le reti stese contro vento congiungano quei vertici di cieli morti da millenni. Svelte, le carte del poema compongano le rotte al largo, dove la terra dal mare si slega. Così il tuo sguardo tocchi l'estensione dei fondali, i tuoi capelli riuniscano le alghe alle famiglie dei coralli, le mani siano stanze dove l'eco di tempesta si disperde, il mio spirito annegato riposi e aspetti le tue dita sopra il viso, nello strappo del cuore. Non temere che si offuschi in mare aperto la lampara, l'occhio intermittente a cui ti appelli, da cui mi guidi. Neanche l'acqua che si frantuma di continuo intorno al remo ti allontana, neanche il nero ricettacolo di ventri ed orsi giganteschi d'abisso, sirene o mostri, mi frastorna. Numero 3. Chi parla per sé alla vita lo fa chiudendo gli occhi, raccoglie il proprio orlo di luce, la propria cima d'ombra a cui si lega nella cruna della morte. Un vento, già sul piede dell'addio, calca l'erba felice del prato, spezza i rami che non fa fiorire, stacca nella tenerezza il frutto acerbo, spiega il filo teso al morso della voce. La rosa arrampicante punge, il canto dentro il nido. Il gelsomino fa erba di sé. In uno specchio d'acqua nera luccica una stella. La mente che lo intende vacilla, il cuore non ha più sonno né vita. Al pugno sulla porta risuona un antro immenso, un soffio curvo, alto, l'eco si trascina sull'ardesia delle stanze vuote in attesa di un bisbiglio. Il silenzio forza tutte le serrature e dietro trova solo il proprio volto come in uno specchio. Sulla prima pietra del giardino, ancora calda, la mano torna ad accarezzare il mondo. Numero 4. Le luminarie delle barche sui pontili, l'onda lenta sui ghiaieti in fondo al mare. La punta delle dita graffia i tuoi silenzi, la stella fissa dilata una pupilla d'acqua. Un'ora lieta ci rivolge gli occhi, nella sua infinita calma scricchiolano gli ormeggi. Poi la parola che trascina a fondo tutte le parole ci chiama per nome. Affiorano i relitti, i naufraghi sicuri ai porti, i lumi dei santi pescatori. Mi volgo dove non sei più e dove lancio la mia parola, come a una fune tu ti aggrappi e le tue mani stringono quei nodi che la tempesta tira, io non sciolgo, alta ti vedo, un albero di vele issate, strappate al vento, ti cerco tra i cordami dei capelli, dove non sei più, mi getto in quell'acqua scura, sul fondale sfioro di continuo il volto, lo scoglio che scuote il mare. Numero 11. Questo è il testo che non hai mai ascoltato, Lucilla. Io sono il ruscello del bosco. Tra i salti seppellisco il canto di un altro giorno. Mi gonfia la pioggia, il vento mi gela, un raggio di luce mi scioglie a memoria dell'acqua. Soffio nel mare il fruscio delle foglie dei faggi ai pesci, riempio le conchiglie del fischio degli abeti, col bramito del cervo scuoto gli antri sommersi. Da me rinasce il bosco ai piedi dei continenti. Io sono però il canto nel tuo spazio sacro, battezzo i tuoi frammenti, trascino di tutti i nomi il peso, i pesi spezzo dei tuoi tormenti. Alle tue dita offro l'acqua dolce su cui si specchia il volo della folaga impaurita a una folata d'aria scura e il brusio delle api nel silenzio sterminato dei prati. Sono io, il canto che non sai, ma mentre taci, ispiri dalla gola del mare.